pezzi che ci può avere una panna, anche se la panna qualche difetto ce l'ha per i consumi eccetera eccetera, qualche problemi non l'ha dato, però a livello di utilità è una macchina che tiene valore e funziona più che bene. Poi deve migliorare qualcosina ancora sulla qualità, perché le coreane adesso stanno facendo le scarpe a tutti. Prima quando si pigliava una Hyundai si poneva una Kia, non ne parliamo, adesso si dà 7 anni di garanzia alla Kia e 5 la Hyundai, e non sono pochi, nessuna casa te le dà, a meno che non te la fai a pagamento. Sono costruite veramente bene le Kia e le Hyundai, prima erano ridicole, vergognose, che fanno ridere le peggiori in assoluto, costano poco c'è da dire, però ti danno veramente poco, sono le Dacia. Io macchine peggio di quelle non ne ho ancora visto, costruite malissimo, qualità scadentissima, ruggine a tutto andare, ci sono parte ancora senza essere trincate, tu devi vedere macchine di 5-6 anni totalmente marce, ma marcemi che rimane a bocca aperta. Io ero dagli anni, fine anni 90 che non vedevo più macchine arrugginite, e adesso ho cacchio di macchine del 2014-2015, tutti vorazzi. Dici che è un'azienda vicina a Renault, vuol dire che non hanno fatto gaggate, hanno fatto... No, il discorso è questo, certe parti della carrozzeria sono trincate, altre parti abbastanza strutturali, tipo i montanti delle porte, cosa del genere, sono in lamiera normale, non trincata, e di lì se tu la tieni qualche anno all'aria aperta, sì, ma ci ce ne ho fatto una, mi sono spaventato, non avevo mai visto una macchina negli ultimi anni così in marcia, cioè potevi vedere ai tempi della Panda di 30 anni fa, sì, la vedevi la ruggine, qualche uno, ma non avevo visto una macchina del 2015 marcia come quella lì, e me ne sono capitate due, non è dire solo quello lì, io pensavo avessero sostituito qualche pezzo, qualche carrozzeria, magari qualche saldatura malfatta, invece era, ne è capitata un'altra uguale, nello stesso problema di ruggine, marcia, abbiamo dovuto sostituire i montanti, era una vergogna. Anni che non si vedono queste cose. Sulle cappotte, diciamo, sino agli anni 2005 qualche macchina la trovavi ancora, perché molte macchine non hanno la capota che non si è arringata, ne trovi qualcuna ancora, sino al 2005-2006. Non ce ne sono più, adesso sono totalmente zincate, vedevi per dire le Punto, qualche macchina Opel, Ford con la capota completamente marcia all'altezza del parabrezza, ne vedevi, però adesso non ne vedo più di macchine recce, ma una macchina del 2015 marcia, io non l'avevo mai, ma marcia da sostituirsi il pezzo, mi proprio chi ne va all'interno dello sportello, ne sta facendo entrare allo sportello. Proprio mondezza, poi non parliamo di particolari di interni, alta cristalli, pannellerie, cose del genere, interruttori, cioè una macchina ridicola. Tu dici salvo al motore, c'hanno meccanica Renault, diciamo, vanno più che bene, non è niente da dire, però cazzo, all'interno le plastiche, peggio di peggiori macchine coreane di 20 anni fa, la peggiore coreana, la Daewoo, la Hyundai, quelle piccoline di una volta, le Atos che facevano ridere, erano meglio di questa. Ma guarda, ce l'aveva un amico mio l'Atos, se non è mai avuto ruggine, non va nulla, era. E proprio accuditi con l'Atos, tu prova a sbatterti appena appena, se ti tiri un calcio nel muso te ne butti in terra il muso, ti schiacci il rivestimento in terra. Ma sono macchine che non servono a nulla. Però devo dire che la Hyundai in assoluto è stato il marchio che ha avuto insieme alla Kia, perché la Kia prima ti buoni a ridicolo, quando dice la Kia che schifo, io quando le vedo tolgo i pannelli, le rifiniture, le viti che ci mettono, eccellenti, qualità costruttiva molto alta, molto meglio di marchi tipo Peugeot, Citroën o Ford che stanno decadendo alla grande, Opel, la Ford è, secondo me, quella che è decaduta più di tutti dei marchi importanti come qualità costruttiva. Discreta sì, ma è caduta tantissimo in basso. Per carità. Così la Toyota, anche se è un buon prodotto, però ha perso tantissimo. Quando è entrata sul mercato era all'avanguardia, ha bruciato un sacco di marchi. Adesso anche loro stanno mettendo i fissaggi con le viti, non è molto più tutto con minimo, le templastica, se piglia un colpo ti sacca un barauti e ti cade in terra, te la sacca tutto, non hanno più viti, tutto a mollettine, cose del genere. Non parliamo di sistemi, quelle piccoline, come si chiama? Ma che si chiama? La piccolina della Toyota, la Aygo. si mette a ridere, i cristalli che te ne faccano, la C1 lo stesso, quel gruppo di macchine lì, che sono tutte costruite, la Peugeot, la Citroën e la Toyota, sono tutti uguali, cambiano qualche fesseria, ne escono i cristalli, non tengono l'incollaggio, è una gaggata di macchine. Ma ecco, perché, ma perché la gente compra queste porcherie? Io non capisco. La gente molte volte non è informata, ci ha disinformata con la Fiat, una gaggata. Io ti posso dire, quando mi metto a riparare certe macchine Fiat, smontando, una semplicità unica, devi cambiare uno specchietto per dire due viti, tacche e ne esce, anche se è elettrico, ti mettono il cavetto vicino in modo che non c'è bisogno di togliere il pannello. Tacche, vuoi lavorare sulle sitte, devi smantellare mezza macchina. Devi togliere lo sportello, non ne parliamo. La Fiat, il tuo connettore veloci, lo sportello ci metti 30 secondi a togliere lo sportello. Di una qualsiasi Fiat, non stiamo parlando di solo di utilità, è un attimo, prendi e smonti, facilissimo riparare eccetera. E anche per smontare una macchina francese, mamma mia, già lo so, già uno schifo sono, io comprerei sempre Fiat oltretutto, cioè è molto meglio come lavorano, ma anche in anni passati hanno sempre avuto, cioè gli hanno sempre fatte bene le macchine, cioè molto facile da lavorarci e tutto. Queste schifezze di macchine straniere, vi do macchine cazzo che non riesci manco a lavorarci sopra. Sì, no, no, diciamo qualitativamente c'è meglio della Fiat, niente da dire, perché le tedesche sono sempre all'avanguardia di certi marchi, però lì io parlo facilità di fare manutenzioni, riparazioni e cose, piccole, piccole lavorazioni, non ce n'è, le macchine italiane sono molto molto più semplici da lavorare. Poi non parliamo adesso, ci sono tutte queste mode di fare tutte queste sagome strane, che tu le vedi, cacchio, che vai a riparare ed è un problema, perché sono tutti sagome, pare disegnati da un bambino piccolino con tutte queste forme strane, ed è un problema poi riparare, devi per forza, ti costringono per sostituire il pezzo. Lo so, già, dopo ci lamentano, domandi 2-300 euro, ma fai su della maglia, state nella bozza, e compareggiate sempre 10 macchine, due a futtidine. No, vabbè, io dico, le macchine, a parità di prodotto, io consiglio sempre di rimanere in Italia, poi, secondo certe categorie di macchine, c'è diversa scelta, però, mi lasciamo ben attenti, perché molta gente va con il marchio, cacchio, quando è uscita la classe A della Mercedes, la Mercedes è un marchio prestigioso, c'ha una fama di, che era una grandissima cagata di macchina, ha dato tanti di quei problemi, adesso le nuove classe A, diciamo, dal 2015 in poi, hanno totalmente cambiato, ma quando l'hanno costruita, hanno fatto la prova dell'Alce, con tutti i giornalisti dentro, la giovane non si ammazzano, si è caputata la macchina, hanno voluto mettere un sistema anti-spin, l'SP hanno voluto mettere perché non teneva la strada, pericolosissima quella macchina. Se l'avesse fatta la Fiat una cosa del genere, guai, sarebbe uscito solo della Mercedes dopo per me. La Smart lo stesso, una grande bidone di macchina, a 60.000 km, dove cambiare il motore si scioglieva perché c'era un difetto strutturale di costruzione, di lubrificazione. Idem di Qashqai, quanti motori hanno fuso i Qashqai, non parliamo dei cambi dell'Audi, ti trovo 10 macchina perfetta, però diciamo su certe cose ci sono dei prodotti abbastanza validi, abbastanza equilibrati, però macchina perfetta non esiste, ogni macchina ha i suoi problemi, qualunque macchina, però la gente è fissata, oh, io ho sempre comprato Mercedes, sempre Mercedes, te ne faccio vedere i problemi di motori di Mercedes, ti metti le mani in testa, la gente è fissata, usci, va solo per il marchio, non è pure la Fiat è una gagata, ci arrugginiscono tutte, sì, 30 anni fa, adesso il problema di ruggine non ne ha nessuno, a parte la data, ci avrà altri problemi di altre cose la Fiat, ma motoristicamente sono eccellenti, i motori non si rompono mai, facili da sistemare, manutenzioni semplicissime, sono la gente fissata, mi compro questo marchio, che cosa c'ha di meglio in più di quest'altro, la gente è fissata, avanti a te. Si vuole far vedere moderni, si vuole far vedere robe moderni, la modernità, ma infine vai a guardare, sono una grandissima gaggata, come ti hai detto tu, perché cioè lasciamo perdere, Fiat e Fiat, non venuto da Ivano, io comprerei sempre Fiat, le altre macchine a me non è che mi piacciono, cioè è inutile che stiamo lì a girarci, poi è difficile a riparare, non c'è a fare i pezzi, pa caridai, lascia perdere, no, no. E che dà due cazzate se torna a battente. Secondo che macchina è? Io mi ricordo quella cosa che avevamo in file, era la punto file, era riparabile. Con pochi soldi te ne uscivi, era sempre andando questa macchina. Sì, a uno file l'ho avuto anche la motore 1000, era diciamo forse in assoluto il miglior motore che abbia mai costruito la Fiat, parliamo di motori di grande distribuzione, l'hanno cercato di mettere in tutti di una semplicità unica, leggerissimo, ottime prestazioni, bassissimi consumi, manutenzione inesistente perché anche senza dubbio quel motore camminava, se saltava la cinghia di distribuzione non piegava le valvole, per cui non faceva nessun danno, aveva un sistema di blocco eccellente, il miglior motore probabilmente in assoluto a livello mondiale, parliamo di motori di quelle categorie lì, e poi ci sono motori superiori di altre cose, però parliamo di motori di utilitaria, probabilmente uno dei migliori, se non il migliore motore mai costruito nella storia dell'automobile, il motore 1000 Fire, ed è un motore stampato nel 1985, l'hanno tirato fuori quel motore lì, è una cosa eccezionale. Sì, no, non la uno, non la punto avevamo noi. Ma questa macchina l'abbiamo venduta, andava sempre bene, andava. L'abbiamo venduta per prendere questa diesel, poi perché mia madre viaggiava e per usarla, però la benzina costava un po', quindi, perché era dializzata e quindi avevamo dovuto prendere quel tipo di macchina. Allora, la macchina, forse ce l'avevamo avuta ancora quella punto là. Se non è stata per cambiarla, ce l'avevamo avuta ancora. Funzionava, che è una meraviglia, lo sai i viaggi che abbiamo fatto? L'ha fatto babbo, lui è andato a Casesardo, gnarugo, c'è questo motore a 10.000 km, scendevamo l'olio, mettevamo l'olio nuovo, gli ha dato una ginghia, una cosa, sempre perfetta, non ci ha mai lasciato a piedi. Sì, l'ho avuto anche io, ho avuto la, come si chiama, la 1242 multipunti, perché facevano la 60 che era la 1100, poi c'era la 75 e la 60. La 55-1100, poi c'era la 1242 single point da 60 cavalli e più c'era la 75-1242 sempre motori Fire, derivato da Fire, multi point con doppia bobina quella macchina lì, lo stesso motore eccellente, non puoi dire niente, però io parlo il 1000, il vecchio motore 1000 che avevano montato sia sulla 1 e anche sulla Panda l'avevano messo, un motore eccellente, numero 1, poi di lì hanno fatto tutti i derivati sino adesso, e i motori i 1400 che hanno fatto adesso sono tutti derivati da quei motori lì, motori di 35 anni fa, 40 anni fa diciamo, sono motori eccezionali. Ma il multijet della Fiat, il 1300, è un motore che ha distribuito sia la Ford che la Opel, hanno marchiato Opel e Ford, però è il motore Fiat, e hanno fatto la Ford K, la Opel Corsa, quel motore lì, il multijet 1300, gli ha dato la possibilità di venderlo, cioè di installarlo alla Opel e alla Ford, poi anche dei marchi giapponesi l'hanno montato, la Toyota si dice che abbia cercato di sabotarlo, ci sono tante storie riguardo ai motori lì, perché io sono andato in stabilimento e avevano sabotato dei motori 1300 multijet, anche quel motore ha avuto qualche problemino, però li hanno risolti, però nella categoria era il numero uno, motore più performante, più silenzioso, meno consumo eccetera eccetera, di 1300 era a livello mondiale il numero uno, adesso ce ne saranno altri, però quando è uscito non ce n'è per nessuno, tuttora che tuttora non ce n'è per nessuno, non ce n'è, no, c'aveva molti punti di quella lì, sì è vero, 1200 c'avevamo, e la strada quello con le bombole non c'ha quel motore lì, è indistruttibile, sei i viaggi che abbiamo fatto, ogni altro giambe muroso qualche cazzata e lui va sempre, non lo fermi mai, non lo fermi, ma mica ne viaggiato chi si macchina, chi sa macchine, ma ha viaggiato un bel me. E anche un altro motore eccezionale a livello di chilometraggio, probabilmente di questi ultimi, il numero uno è il 1900, lo stesso JTD multijet che hanno fatto diesel, non ce n'è per nessuno, io ho 320.000 km, io non ho mai fatto niente a quel motore, mai di niente, sempre andando e facendo le corna, lì cambio l'olio con i tagliandi giusti, i filtri eccetera eccetera, però c'è gente che ha fatto 600.000 km e sta ancora andando, motore eccezionale, non consuma niente, non è neanche molto rumoroso, eppure adesso la Fiat ha tirato un motore all'avanguardia mondiale, il 1600 multijet, che è una bestia di motore, ha delle prestazioni coppia allucinanti, nessun motore si avvicina a quelle prestazioni lì con quel peso lì, perché bisogna guardare anche il peso del motore, non è che tu puoi avere un motore che pesa 4 volte tanto, è così compatto e con quella coppia non ce n'è attualmente nel mondo. Sì, è vero, vanno veramente bene, cavolo, niente che ci ha fatto il giro del mondo con quei motori. Allora, quelle che ci sono andate dolce, pala, con il common rail, quella macchina ha superato il milione di chilometri, si è superato, cavolo, ha fatto il giro del mondo. E andava, finché non l'ha versata andava ancora, perché c'avevano strada così, ci avevano. Allora sono motori eterni, che poi non hanno giri di rotazione altissimo, perché allora sui diesel, adesso il livello mondiale, il miglior diesel di commercio c'era la BMW, vicino c'è quello dell'Audi, parliamo se dobbiamo guardare il top del top di motori, però non è caso della Fiat, non ne fa motori di quelle cilindrate, la Fiat, dico, però il motore BMW è il numero uno, i 6 cilindri, e quello che ha fatto la BMW è un motore allucinante, super compatto, l'unico motore in linea, 6 cilindri in linea al mondo, non ce ne sono altri, parliamo di motori di serie, poi ce ne saranno altri sistemi, il top è il BMW, poi si avvicina l'Audi come qua, e poi se scendiamo di cilindrata i motori Fiat sino ai 2000, 2002 sono a livello mondiale come qualità di corso, di durata, prestazioni eccetera, però se saliamo di cilindrate alte, quando iniziamo a salire dai 6 cilindri in su, lì BMW è un gradino sopra gli altri. Poi se parliamo di motori a benzina, senza considerare i limiti, lì ci mettiamo in mezzo dall'Alfa Romeo fino ad arrivare alla Ferrari, non viene per nessuno, Lamborghini, qualche cavallo in più magari riesce a tirare su, però Ferrari è sempre Ferrari. Lo so, Robert, i migliori sono quelli motori, c'è poco da fare, Ferrari anche ha fatto i suoi, costruito motori allucinanti pure loro da corsa, però tipo corsa, no, non ce n'è per nessuno, macchine eccezionali, che fanno anche chilometraggi. Sì, Ferrari c'ha una storia dietro, questo c'è quel motore nuovo, una cosa spaventosa, motore sempre ibrido, motore a combustione più accoppiato con quattro motori elettrici, mi pare c'è una roba di 1000 cavalli, 890 cavalli, una cosa del genere. Sì, lo so, aspetta che sto dando una cosa a Sara, mi aspetti 2 minuti? Tanto 2 minuti, perché adesso devo chiudere io, tra 2 minuti ti aspetto. Ehi, dai, adesso vado e devo fare cosa, dai, ci sentiamo magari un altro momento, ciao, buon tutto, buona carica, vabbè l'ha già fatta, penso la cosa, dai, ci sentiamo eventualmente domani, ciao, buonanotte. Luca, ci sei ancora? Allora, buonasera, qua si dice, niente, c'era tutti, non è qua andando. Tutti i cigali visibili, ma era giusto. Nome di Rubiato, Giga Bietta, canale rete, cambio.